Sì, sono tre progetti molto diversi ma con un forte filo conduttore e che toccano ambiti disciplinari diversi. L'apertura sarà alle 19 con la videoinstallazione Heating e Scoria, To Not Stay Still, di Camilla Dalmazio, che sarà visitabile per circa 2 ore e poi nuovamente alla fine delle altre performance. Alle 21 ci sarà il concerto del collettivo Sonic 2023, che suonerà la composizione Changes di Ellen Arkbro, una composizione che è stata realizzata in residenza un paio di settimane fa alla Torre del Centro Musica di Modena, con questo ensemble di musicisti che vengono dall'ambito jazzistico. Ci sono una sassofonista, un contrabbassista, chitarristi, batteria, un gruppo molto eterogeneo che è stato selezionato con una call la scorsa primavera e che suonerà appunto per questo progetto Sonda Music Sharing del Centro Musica di Modena. Alle 22.30 la performance Libertà Esercitazioni di Maria Chiara Pedersini e Chiara Ferronato di Primo Amore, una fiaba sul tema dell'amore, sviluppata con delle residenze partecipative con un centinaio di persone dal 2018 a oggi sul tema dell'erotismo, della sessualità, ma anche dell'amore e della natura. E l'installazione di Camilla Dalmazio invece è un lavoro che appunto aprirà l'evento alle 19 e lo chiuderà, ed è sul tema dell'autofagia, cioè del mangiare se stessi. Ecco, questi tre progetti hanno un filo conduttore comune o sarà il pubblico, diciamo, a ricercarlo, o il pubblico stesso che congiunge i tre progetti, ecco? Parzialmente questa congiunzione sarà richiesta al pubblico, ma forse alcune cose sono più evidenti di altre, nel senso che sia Camilla Dalmazio che Primo Amore ragionano molto sul tema del detrito, dello scarto umano e in generale del corpo in forma erotica ma anche non. Questi non saranno gli unici appuntamenti, l'unico appuntamento di dicembre, perché poi si continua il 15 dicembre anche qui con svariati ospiti, Eugenia. Esatto, ci sono due diversi progetti, una sarà una installazione visiva e sonora che occuperà tutto il nostro open space, si chiama No Landscape del collettivo Abgot. È un progetto che propone una risemantizzazione degli oggetti e degli spazi non umani, quindi un ragionamento sui relitti della civiltà umana in un futuro post-umano. E mentre invece nella sala multimediale ci sarà il concerto sintetico-oggettivo di Anna Balestrieri e Tommaso Michelini, due musicisti che vengono da esperienze diverse, da sonorità diverse, che si sono incontrati al Conservatorio Martini di Bologna. Ecco, insomma, anche il 15 dicembre una serata da non perdere. Come sempre ricordiamo, tessera Arci, ma ingresso gratuito. Esatto, sì, per tutta la rassegna fino a maggio. Tra l'altro si è anche conclusa la call, di cui abbiamo parlato anche nella scorsa intervista. Eugenia, come è andata? Immagino che non ci puoi anticipare niente, però insomma siete soddisfatti? È andata decisamente bene, nel senso che abbiamo ricevuto 148 progetti diversi, sono 101 in più della prima scadenza. Questo, ecco, vorrei dare un suggerimento per l'anno prossimo. Succede molto spesso che molte più persone partecipino alla seconda call, quindi suggerisco di bilanciare un po' e di inviare più progetti per la prima, anche perché banalmente è più facile che i progetti vengano selezionati. Adesso sarà una gara dura perché abbiamo 148 progetti, di cui molti bellissimi, li stiamo valutando in questi giorni, ci sono davvero delle proposte molto interessanti e sarà davvero difficile creare una programmazione. Sarà certamente bella la programmazione, perché di progetti validi ce ne sono, ma sicuramente resterà fuori qualcosa di molto bello e probabilmente lo recupereremo l'anno prossimo. Ecco, per rimanere sempre collegati, insomma, a tutti i vostri progetti, vogliamo ricordare un po' di pagine utili per seguire il programma. Sì, tutte le informazioni si trovano sui nostri profili social, Facebook e Instagram. Instagram è das.bologna e Facebook è das, dispositivo arti sperimentali. Abbiamo anche il sito in aggiornamento, a breve insomma tutte queste cose saranno anche sul sito dasbologna.org. Ottimo, grazie mille Eugenia, e ci vediamo a dicembre appunto in Via del Porto negli spazi di DAS per il progetto Collagene. Grazie ancora. Ciao, grazie a te, a presto.